campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.23 e tramonterà alle 17.21. Giovedì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Ludovico Fontana. Si stanno notando i primi cedimenti nell'avanzata che sembrava inarrestabile della cimice marmorata asiatica nelle nostre campagne. Nel servizio di apertura alla situazione e i progetti futuri di contrasto. A seguire tutto quanto si deve sapere per fare una scelta oculata sulle patate da piantare in orto. Per la rubrica della vite e del vino, oggi focus sui sali minerali e il pH all'interno dell'acino di uva, per poi passare al tema generale dei substrati in orticoltura e la seconda puntata dedicata alla brovada con la descrizione delle tecniche e tempi di approntamento. Un dolce famosissimo e ricco di nomi e varianti, quello su cui si focalizza la rubrica della gastronomia che si occupa di Krafen prima dell'andamento dei mercati, delle previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e del proverbio friulano della settimana. Buone nuove dalla lotta contro la cimice marmorata asiatica. Si stanno notando i primi cali di numero soprattutto e soprattutto in certe zone. Come sta andando? Qual è la situazione? Ce lo dice Giorgio Malossini, tecnico dell'ERSA che da anni lavora proprio in questo settore. È sotto gli occhi di molti che questo 2020 ha visto un po' un calo della presenza della cimice, che si riflette anche in un calo dei danni, soprattutto per molti produttori. Ecco, questa diminuzione della presenza della cimice è più evidente, è iniziato già dal 2019, ma è più evidente nel 2020, soprattutto nelle aree che possiamo definire di primo insediamento, ovvero quelle che dal 2014-15-16, i primi anni, sono state più colpite, quindi l'area del Medio Friuli essenzialmente, sono state più colpite dalla cimice. Ecco, in queste aree si è avuta una buona diminuzione nel 2020. Spiegazione del fenomeno? Ci si è anche confrontati con diversi tecnici, anche di altre regioni. Abbiamo la certezza del perché, possono essere diverse cause. Allora, cosa è cambiato dal 2018? Che era l'anno del picco, non si vedeva neanche una luce per i produttori. È stato trovato inizialmente il Trisolcus mitsukuri, anche lui è una microvespa, micro diciamo piccolissima, tipo il Trisolcus japonicus, la vespa samurai, quindi è un parassitoide che colpisce le uova della cimice. Quindi è stato inizialmente trovato, nel 2019 è anche aumentato e nel 2020 di nuovo se ne è trovato ancora diverso in tutta la regione. Quindi la presenza di parassitoidi, anche autoctoni, perché è aumentato anche i rinvenimenti di Anistatus bifasciatus, Trisolcus basalis, altri parassitoidi delle uova. Ci sono state anche effettivamente alcune condizioni meteo particolari, nel 2020 ci sono state delle gelate, nel 2019 è stato un autunno particolare, poi c'è stata la siccità sempre nel 2020 iniziale, quindi diciamo un insieme di concause, sicuramente la presenza di parassitoidi non è secondaria. Cosa ci può aspettare per il futuro? Ricordiamo innanzitutto una tappa fondamentale che è stata effettuata nel 2020, ovvero dopo un certo numero di anni di fatica a livello nazionale, a livello di servizi fitosanitari di cambiare e di Ministero dell'Agricoltura e soprattutto Ministero dell'Ambiente di cambiare la normativa che permetteva il lancio della Vespa Samurai, famosa Vespa Samurai, che è un altro parassitoide appunto alloctono. Dal giugno del 2020 è stato possibile effettuare questi lanci in regione e in altre regioni interessate a livello nazionale. Questo ingresso di nuovi parassitoidi sicuramente è un'arma in più che abbiamo e sono stati fatti questi lanci in 50 siti nei corridoi ecologici, nelle vicinanze di colture e da questi lanci sono stati ritrovati delle ovature in 5 siti della regione. E quindi si è iniziato a insediare. Questo non vuol dire che negli altri 45 siti non si sia comunque diffuso. Vedremo il prossimo anno. L'ERSA sta producendo un vastissimo materiale in materia. Dove lo si può trovare? Dove lo si può consultare? Allora, sul sito dell'ERSA vi è un'apposita sezione sotto monitoraggi fitosanitari, diciamo, ci sono un elenco di organismi nocivi, tra i quali c'è anche la Liomorphalis, quindi la cimice marmorata asiatica, e in questo si può trovare appunto una scheda tecnica la descrive, e anche tutto il materiale che è stato fatto dal 2014 in poi dall'ERSA, e tutti gli aggiornamenti del caso, dei monitoraggi che ci sono. Ecco, in questa sezione sono anche presenti altri organismi nocivi che possono essere oggetto di approfondimento, e sono organismi che non dovranno entrare in regione, per cui il servizio fitosanitario fa sempre opera di monitoraggio per vedere che questi organismi non vengano insediati. Tante sono le variabili da tenere in considerazione anche quando si vuol fare crescere qualcosa in orto, l'esempio delle patate, come ci dice Cristina Micheloni. A guardare fuori dalla finestra non sembra, ma è già ora di iniziare a pianificare l'orto, sia per chi lo fa da hobbista, categoria fortemente incrementata dal lockdown, e ancora di più per chi lo fa di professione. Soprattutto per chi fa venta diretta, le patate sono un caposaldo, nel senso che non possono mancare, devono essere buone e anche disponibili per tutto l'anno, o almeno per il periodo più lungo possibile. Dal punto di vista dell'orticoltore, però, bisogna guardare anche alle caratteristiche della pianta e alle relative esigenze e potenziali difficoltà di coltivazione. Ecco quindi che scegliere la o le varietà più adatte alle condizioni di coltivazione e alle esigenze richieste dai clienti, che poi le acquisteranno, è un elemento chiave, che proprio in questo periodo si estrinseca. Infatti in questo momento si fanno gli ordini ai fornitori dei tuberi seme. Arrivare in ritardo significa non poter scegliere le varietà che si vorrebbero. Le caratteristiche che si devono prendere in considerazione quali sono? La forma, ovale, tonda, allungata e bella complicata come quelle locali chiamate coionaris. Il colore della buccia, rossa come la Désirée o gialla come la Agata, ma anche più o meno spessa, resistente ed omogenea. Il colore della polpa, bianca, gialla, fino al blu e al viola delle specialità. La resistenza e la tolleranza alla peronospora, principale avversità della coltura, una cosa non di poco conto per chi coltiva le patate in biologico. Tra queste c'è la Carolus, la Levante, la Twister e la Alouette. La classe di maturazione, precocissima, quella delle patate novelle, piuttosto che precoce o tardiva. Chiaro che questo fattore viene poi influenzato anche dal momento e dalle condizioni in cui si effettua la semina. La produttività, anche qui però considerando il terreno, il clima e il metodo di coltivazione, quindi ognuno deve farsi un po' la propria esperienza e non considerare solo le proprie varietali standard. La resistenza alla conservazione prolungata, cosa che ne condiziona la disponibilità durante l'anno. C'è poi il più complicato aspetto delle caratteristiche sensoriali, organolettiche e delle predisposizioni d'uso. Al di là delle sacrosante preferenze individuali, ci sono patate più farinose o più compatte, più dolci o più sapide, ma soprattutto più adatte alla bollitura piuttosto che alla frittura, come la agria, per farci il purè piuttosto che gli gnocchi, come la diva. E poi ci sono quelle jolly che vanno un po' bene per tutto, ma non sono perfette quasi per nulla, quindi ben si adeguano al consumatore poco attento, ma danno poca soddisfazione a chi in cucina si cimenta con passione. Insomma, l'orticoltore ha una possibilità, una grande possibilità di scegliere la combinazione di varietà più adatte alla propria coltivazione e farne un punto di eccellenza dell'offerta al consumatore. Ovvio che pure il consumatore deve essere informato e attento. Potrebbe formarsi quella che gli esperti di marketing chiamano una situazione win-win, che in altre parole significa far tutti contenti. Maggiori e più dettagliate informazioni alla pagina Facebook della trasmissione. Per la rubrica della vite del vino, dopo aver analizzato il ruolo degli acidi organici, oggi il professor Roberto Zironi ci parla dei sali minerali e del pH nell'acino dell'uva. La terza componente più importante in termini quantitativi dell'acino d'uva sono i sali minerali. Gli elementi maggiori che sono presenti nell'uva alla raccolta sono in concentrazioni variabili da qualche decina di milligrammo a qualche grammo. Tra questi il potassio è l'elemento più importante, in quanto rappresenta da solo più del 50% delle sostanze minerali totali. Oltre a potassio troviamo poi calcio e magnesio, e in talvolta anche sodio, mentre nel caso degli anioni troviamo fosfati, solfati, cloruri. Poi troviamo anche degli oligoelementi, che provengono da tutte le sostanze minerali del suolo e da tutti i trattamenti agronomici a cui viene sottoposto l'uva nel corso della sua maturazione, e quindi troviamo ad esempio ferro e rame come residui dei trattamenti anche antiparassitari, che possono però poi andare a incidere negativamente sulle qualità del vino nel corso della sua produzione. Durante tutta la maturazione si assiste ad un continuo accumulo delle sostanze minerali, non secondo un gradiente continuo, ma fondamentalmente legato a delle condizioni ambientali. Ad esempio il potassio, che riveste un ruolo prevalente nella composizione del frutto, risulta essere fortemente influenzato sia dalle disponibilità del terreno, ma specialmente dalla disponibilità idrica nel corso della maturazione. I cationi, tra cui il potassio abbiamo visto essere il più importante, sono importantissimi per tutta una serie di reazioni che possono entrare nella sfera chimica e metabolica del frutto. In particolare il potassio viene utilizzato dalla cellula del frutto per neutralizzare l'acidità all'interno della cellula stessa e quindi per compensare l'eccesso di ioni H+ con il potassio stesso. Conseguentemente quindi abbiamo una diminuzione dell'acidità reale del succhi del frutto, che viene espressa in termini chimici sotto il termine di pH, che è la misura della concentrazione degli ioni H+ in una soluzione. Il pH quindi è un'espressione di equilibri di dissociazione tra i diversi acidi e della salificazione degli stessi. Nel caso del mosto e del vino abbiamo un pH che fluttua in un intervallo fra 2,8 e 4 e dipende quindi fortissimo, oltre che dalla maturazione degli interventi agronomici, anche dalla presenza di acidi e di potassio. Il pH ha un'influenza notevolissima sui caratteri sensoriali del vino, così come avrà, e lo vedremo successivamente, un'influenza notevolissima su tutti i fattori tecnologici connessi con la sua produzione. Nelle scorse puntate, nella rubrica dell'università, avevamo parlato di due tesi sperimentali sui cubetti di substrato per l'orticoltura. Oggi Sara Bosco affronta il tema dei substrati in generale. Spesso però prende il nome di terriccio, che ha però lo stesso significato, solo diciamo meno tecnico. Il substrato è un mezzo che ha due funzioni principali. Da un lato quello di fungere da ancoraggio alle radici, proteggendole e permettendole loro di respirare. E dall'altro quello di garantire l'apporto idrico e nutrizionale delle piante. Attualmente non esiste in commercio un tipo di substrato universale, ideale cioè a tutte le tipologie di coltivazioni, ma spesso si ricorre all'impiego di miscele di substrati diversi. Questo permette di ottenere un substrato che rispecchi tutte le caratteristiche dei materiali di base, tra cui la capacità di ritenzione idrica, di drenaggio e di aerazione. Tra i componenti più importanti troviamo la torba, questo materiale organico presente in zone umide e paludose, originatosi in molti anni dalla fossilizzazione di materiali vegetali. Le torbe si differenziano nella loro composizione, ma anche nel colore, infatti le torbe più scure sono quelle più decomposte, che presentano perciò una maggior stabilità e omogeneità rispetto a quelle più chiare. Altri componenti sono ad esempio le argille, sabbia, pomice, lolla di riso e vermiculite. Quest'ultimo è un minerale che, grazie alla sua composizione, è in grado di trattenere l'acqua, ma anche di favorire un buon drenaggio. Per concludere, va nominata anche la fibra di cocco, o in alcuni casi il midollo di cocco, un materiale che piano piano sta prendendo sempre più piede nella composizione dei substrati, grazie alla maggior sostenibilità della sua produzione e alle ottime caratteristiche in termini di ritenzione idrica e di leggerezza del materiale. Anche questo componente non viene mai impiegato da solo, ma in miscela con la torba, che è il materiale più impiegato per la preparazione dei substrati. Ovviamente di questi substrati vanno considerate sia le caratteristiche di composizione, ma anche il costo e l'eventuale presenza di impurità, come i semi di erbe infestanti, che sono un enorme difetto. Adriano Del Fabbro, dopo un inquadramento storico, oggi passa a descrivere tecniche, materiali e tempi per ottenere una brovada DOP. Questo alimento invernale, simbolo della tradizione gastronomica friulana, è stato inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari regionali nel 1999 e protetto con la DOP dal 2011. Il consorzio di tutela si è costituito nell'agosto del 2020. Le rape utilizzate per la produzione della brovada appartengono a un ecotipo friulano, selezionato a partire dagli anni 50 del Novecento. Seminate all'inizio dell'estate, le rape vengono raccolte nei mesi settembre-ottobre, a seconda dell'andamento meteoclimatico stagionale. La vinaccia, prima dell'utilizzo, deve avere completato il processo di fermentazione con la trasformazione degli zuccheri in alcol. Una volta lavate e scollettate, le rape intere vengono inserite negli appositi contenitori, alternando strati di radici con strati di vinaccia. La parte superiore della massa è sempre costituita da vinaccia. Nella creazione degli strati viene utilizzata una quantità di vinaccia che varia dal 25 al 100% del peso delle rape immesse. Gli unici ingredienti ammessi sono rape, vinacce di uve rosse del Friuli Venezia Giulia e acqua. In piccole quantità possono essere aggiunti sale marino, aceto di vino rosso e vino rosso della regione. Proibito ogni uso di coloranti e conservanti. A caricamento completato, sulla massa così preparata si applicano dei pesi per assicurare l'immersione del materiale fermentante durante tutto l'arco del processo. L'inacidimento delle rape è dovuto al lavoro dei batteri lattici che trasformano lo zucchero delle stesse in acido lattico durante la fermentazione, che si svolge a una temperatura non inferiore ai 10 gradi centigradi e non superiore ai 22 gradi. Si considera concluso il processo fermentativo dopo circa 35-50 giorni, quando anche le parti interne delle rape hanno assunto il caratteristico colore roseo, un aroma di vinaccia e la completa scomparsa del sentore di vegetale fresco. Oggi la decina di produttori che rispetta il disciplinare DOP commercializza annualmente circa 7.000 quintali di Brovada, proveniente da una cinquantina di ettari delle ex province di Udine, Pordenone e Gorizia. Dunque la Brovada è una verdura fermentata dal sapore pungente e caratteristico di vinaccia, con un pH compreso tra 3,4 e 3,8. L'emissione al consumo della Brovada DOP è ammessa a partire dal 26 settembre e deve concludersi entro il 15 maggio dell'anno successivo. Sono conosciuti semplicemente come Krafen, ma quanti aneddoti, storie e nomi ci sono dietro questo dolce, di cui Roberto Zottar ci svela anche una ricetta speciale. Ich bin ein Berliner, sono un berlinese, è la celebre frase pronunciata dal presidente americano John Fitzgerald Kennedy a Berlino Ovest. Kennedy voleva manifestare la vicinanza agli abitanti di Berlino, città allora divisa dalla cosiddetta cortina di ferro. Ma forse non sapeva che questa frase ha anche un doppio senso. Infatti in Germania i Berliner non sono solamente gli abitanti di Berlino, ma anche quei soffici dolci fritti che nel sud della Germania e nella nostra regione vengono chiamati Krapfen e in Italia anche bomboloni o graffe. La nomenclatura dei cibi è curiosa e non sempre ha un significato univoco con ciò che nominalmente potrebbe indicare. Ad esempio in Francia i dolci di pasta al lievito sono conosciuti come viennoiserie, cioè preparazioni viennesi, mentre negli Stati Uniti questo genere di dolci viene chiamato Danish pastry, cioè pasticcini danesi. In Danimarca si parla di loro come wienerbrød, pani viennesi, che a Vienna oggi invece, oltre al vecchio Golachen, sono chiamati Copenhagener, cioè proprio di Copenaghen. Ma a prescindere dal nome, che tra l'altro in Austria è Faschingskrapfen, sono i nostri dolci di carnevale. I Krapfen, delle migliori pasticcerie goriziane e triestine, venivano un tempo, e oggi lo sono purtroppo raramente, fritti nel burro chiarificato, Lont, acquisendo così profumo e gusto ineguagliabili. L'impasto è quello di una pasta brioche, cioè una pasta lievitata dolce con uova e burro. E qui mi permetto di ricordare che i cornetti al bar, che noi impropriamente chiamiamo brioche, sono in realtà dei croissants, a base di pasta croissant, cioè pasta brioche, ma sfogliata al burro con ripetute pieghe. Ci sono moltissime ricette di tradizione casalinga di Krapfen, ma recentemente mi sono imbattuto in una moderna e curiosa a doppio lievito che li rende particolarmente soffici. Impastate, meglio in planetaria, 1 kg di farina forte, 150 g di zucchero, 10 g di malto miele, 5 g di lievito chimico baking, 40 g di lievito di birra, 3 uova, 450 g di latte, 20 g di sale, buccia di limone o semini di vaniglia. Fate incordare l'impasto e aggiungete in più riprese 150 g di burro morbido. Fate riposare 20 minuti, poi riponete l'impasto stretto in un contenitore con coperchio in frigo per 12 ore. Riportate poi a temperatura ambiente, formate palline da 70 g e fate lievitare. Friggete in burro chiarificato olio di semi a 150 gradi per 2-3 minuti per lato. Farcite con marmellata di albicocche o crema. I Krapfen saranno sofficissimi. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con unità 14% è stato quotato tra 21,30 e 21,50 euro il quintale, IVA esclusa, il frumento tra 22 e 22,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 19,40 e 19,90 e la soia tra 48 e 70 e 49 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5 euro e la soia di 13,90 centesimi il quintale. Passando ai bovini del macello, si rileva una leggera ripresa nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,50 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,50 e 2,20. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma quotazioni rivalutative e l'ultimo andamento accerta i blubelga maschi pagati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4 e 4,40, i frisoni tra 1,30 e 1,60, i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano gli spunti di ripresa per il valore delle tonzole di 30 kg franco partenza. I prezzi si fissano in 2,52 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,23 il chilo. Domanda confermata con quotazioni stabili per il montasio, ma un leggero aumento si è avuto per il latte crudo di vacca franco stalla di origine Friuli Venezia Giulia, quotato dalla commissione camerale di Pordenone Udine a 36,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA, mentre il prezzo del montaggio fresco è compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, con marchio di qualità tra 8,20 e 8,50 e lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano cenni di ripresa diversificati con i poli a terra pagati tra 1,01 e 1,02 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,35 e 2,39, le faraone tra 2,27 e 2,37, i tacchini maschi tra 1,31 e 1,33, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,21 e 2,27, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata alle meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Febbraio è iniziato con un progressivo aumento delle temperature. Sono stati registrati infatti valori crescenti in tutte le zone. Negli ultimi 4 giorni le medie sono state di 4-5 gradi in più rispetto al normale, fino a 7 gradi in più nel Tarvisiano, che con le correnti miti mediterranee provenienti dal sud-ovest è la zona dove le anomalie diventano più significative. Lo zero termico è salito intorno a 3.000 metri circa e quindi su tutta la zona montana si sono registrate temperature sopra gli 0 gradi per molte ore, condizioni che stanno modificando anche il manto nevoso. Oggi passerà un fronte che darà poi origine anche alla formazione a tutte le quote di una depressione. Con l'arrivo dello scirocco sono attese piogge, anche molto intense e localmente temporalesche, fino a quote elevate per gran parte della giornata. La quota neve calerà intorno a 1200-1400 metri solo in serata. Sulla costa piogge più attenuate, ma saranno possibili mareggiate, specie fra Lignano e Grado. Domani mattina ancora precipitazioni moderate o localmente abbondanti. Poi ci saranno delle schiarite, ma saranno ancora possibili dei rovesci. La quota neve si abbasserà fino a 800.000 metri circa e sulla costa soffierà libeccio moderato. Martedì è attesa una tregua con tempo leggermente migliore, probabilmente poco nuvoloso in montagna, cielo variabile invece su pianura e costa, temperature in lieve calo ma sempre un po' sopra la media. Mercoledì è probabile che si avvicini un nuovo fronte atlantico, accompagnato ancora da scirocco sulla costa, piogge da moderate localmente abbondanti, nevicate oltre i 600-800 metri. Da giovedì e poi verso la fine della settimana, seguendo la maggioranza dei modelli di simulazione del comportamento dell'atmosfera, potrebbero arrivare correnti secche continue, decisamente più fredde, che porteranno cielo sereno o poco nuvoloso ed un marcato calo delle temperature, con valori decisamente sotto zero di notte anche in pianura. Ma come suggeriamo sempre, è bene seguire giorno per giorno l'emissione delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A Santa Polonia il freddo va in Slavonia, ovvero a Santa Polonia il 9 febbraio il freddo va in Slavonia, ovvero lascia la regione per spostarsi ad est, ritenuta zona più fredda. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Ludovico Fontana e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.